Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi il tema che affronteremo è: del maiale non si butta via niente. Avremmo potuto fare la stessa cosa anche con il tonno, perché anche il tonno, del tonno non si butta via niente, ma questo non è periodo di tonno, per cui pesca vietata al tonno, e anche perché poi le tradizioni del tonno sono molto limitate in poche aree d'Italia. Invece il maiale ha una tradizione, diciamo, su tutte le regioni d'Italia, come vedremo, e soprattutto sulle lavorazioni, e anche sulle lavorazioni di parti che di solito non sono quelle pregiate, non sono il prosciutto, non sono il colatello, non sono il fiocco, insomma, di questi prodotti minori che sembrava fossero tramontati, ma in realtà in tempi di crisi forse questi prodotti potrebbero tornare utili, ma questa tradizione è rimasta ovunque e, come vedremo, è molto diffusa, molto ancora sentita. Numero verde 800240024, SMS 349-238-6666. Bene, cominciamo questo giro d'Italia dalla Sicilia. Cominciamo da Chiaramonte Gulfi, dove c'è un luogo veramente deputato al maiale, un posto straordinario dove da anni ed anni questa tradizione viene continuata alla stessa maniera. Buongiorno a Salvatore La Terra. Buongiorno Davide, come va? Tutto bene? Bene, bene. Al ristorante Maiore prosegue tutto bene? Sì, tutto abbastanza bene. Poi oggi abbiamo una giornata prettamente invernale, perciò è perfetta per mangiare il maiale. Ecco, allora, Salvatore, tu fai una specialità che è unica, che è la gelatina di maiale. Vuoi raccontarla ai nostri radioascoltatori? Allora, la gelatina di maiale che noi facciamo da un bel po' di anni, perché la nostra attività ha 112 anni di vita, è una riedizione della vecchia gelatina. La vecchia gelatina è un piatto che è nato come metodo di conservazione, perché nei tempi che furono non c'era il congelatore. Allora, uno dei sistemi di conservazione per poter allungare il consumo del maiale nelle famiglie era la gelatina, e si preparava con la testina, il piedino, un po' di carne poca, e questa poteva durare anche 15 giorni così. Oggi come oggi noi la gelatina la facciamo tutta di carne scelta, mettiamo la spalla, lo stinco della costata, il tutto viene bollito, viene aromatizzato e poi dissossato successivamente e pressato. L'indomani poi viene tagliata a fettine e sopra questa carne viene messo lo stesso brodo della carne, che viene opportunamente sgrassato, chiarificato, e viene messo a condensare. Bene, grazie, rimani con noi, sentiamo Adelaide da Pavia. Buongiorno Adelaide. Buongiorno signor Paolini. Senta, volevo chiederle riguardo il maiale. Io vedo adesso c'è un mio cognato che ammazza tuttora il maiale, però praticamente viene buttato tutto, cioè il lardo viene buttato, il fegato se ne mangia 2-3 fettine perché poi in freezer non va bene, via dicendo. E poi dico, con il ritmo di vita che abbiamo oggi, io sono sempre sul borderline con il colesterolo, però uso quasi sempre il lardo per soffriggere, no? Per fare i soffritti. Cosa me ne dici? Come si fa, per esempio, a conservare il lardo? Non ci sono più neanche gli ambienti. Questo è molto vero. Come dicevo, i tempi sono cambiati. Abbiamo sentito da Salvatore La Terra che anche su questa tradizione centenaria della gelatina c'è stato così una variazione. Oggi si scelgono i tagli molto più pregiati. È evidente che c'è stato un cambiamento. Sul colesterolo, però, io vorrei dire un particolare. Proprio in questi giorni sono apparsi sui giornali queste ricerche che riguardano i centenari della Sardegna, che sembra che sia il posto al mondo dove ci sono più centenari. E proprio ieri io ero vicino a Cagliari, dove era in corso un convegno abbastanza approfondito sul discorso che riguarda il formaggio e il discorso dei centenari, appunto, sardi. E ci sono vengono dei dati che vengono tutti rimessi in discussione, appunto, perché il formaggio, tutti urlavano attenti al colesterolo, sembra che certe tipologie di formaggio, invece proprio tipiche sarde, non abbiano questo problema. Quindi attenzione a tutti i discorsi ogni volta colesterolo d'altro, perché qui ci sono ricerche che poi smentiscono le ricerche. Certo, bisogna fare molta attenzione sicuramente alle parti del maiale, mangiarlo dal punto di vista del colesterolo, per carità. E i tempi, è evidente, sono cambiati, ci sono questi problemi, ci sono anche modi di mangiare completamente diversi, modi di conservare i prodotti. Quindi è evidente che tutta una tradizione se ne va. Io appunto ho fatto questa trasmissione per vedere cosa rimane di questa trasmissione, di questa, diciamo, parte di nostra tradizione che utilizzava delle parti che poi venivano buttate. Lei mi dice che tutto viene buttato. Bene, vediamo se succede così anche in altre parti d'Italia. Sentiamo Lillino da Roma. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io le volevo chiedere, nei supermercati la salsiccia di maiale ha un costo inferiore rispetto addirittura alla carne macinata, anche se c'è più lavorazione, penso. Ma la carne di maiale, la carne di maiale costa sempre meno rispetto a quella di manzo, non è un sì, fatto. Sì, no, ma la sì, ma la domanda è questa: come mai la salsiccia, pur essendo confezionata in salsiccia, costa meno della carne macinata, sempre di maiale? Guardi, abbiamo sull'altra linea un macellaio di La Salle, in provincia di Aosta, che abbiamo chiamato per parlare del boudin. Parleremo anche del boudin, ma voglio chiedere a Flavio Ottoz se ha sentito questa telefonata del nostro radioascoltatore di Roma e cosa ne pensa. Perché costa meno la salsiccia della carne macinata? Pronto, Ottoz? Pronto, Ottoz? Sì, pronto. Ha sentito questa domanda? Se lei può rispondere. Cioè, perché da lei la salsiccia costa meno della carne macinata? No, allo stesso prezzo. Allo stesso prezzo. Bene, abbiamo visto che... Allora, Ottoz, lei l'avevo chiamata per parlarci del boudin, questa specialità, della Valle d'Aosta. Ce ne può parlare? È una specialità più della Valdine, dell'Alta Valle d'Aosta. Sì. Perché poi la stanno copiando... In bassa valle, però la specialità è proprio su dell'alta valle. Ecco, e cos'è il boudin? Come è fatto il boudin? Il problema è che il boudin è fatto con una parte di patate, barbabietole, carne di maiale e lardo. E un pizzico di sangue. Ogni 100 kg sarà 2 litri di sangue. Noi mettiamo 30 di patate, 30 di barbabietole rosse, quelle rosse, cotte. Quindi la tradizione era che quando non c'era sufficiente maiale si ricorreva alle barbabietole. Quindi era un prodotto povero che contribuiva in qualche maniera, appunto, a far pensare che si mangiasse carne da maiale. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a fare un'indagine su cosa non si butta oggi del maiale. Ottoz, le volevo chiedere, quanto costa al chilo il boudin? Il boudin viene 5 euro al chilo fresco e 8 stagionato, perché si mangia sia fresco, sì, che stagionato. Fresco si fa cotto al forno, a vapore, o se no si fa anche saltato in padella, come facciamo con la mela aranetta. Bene. Nei volovan si presenta così come un antipasto. Ottoz, senta, ma viene molto richiesto ancora il boudin? Ma noi qui ne facciamo tantissimo, perché proprio la zona arriva da tutta quasi la valle, e nella Valdina, nell'alta valle d'Aosta, su in cima. Bene, io la ringrazio, buon lavoro. Mi ricorda molto la ciuiga trentina, questo prodotto della boudin della Valle d'Aosta, quindi ci sono molte analogie nei periodi di povertà, diciamo che il cervello veniva fatto funzionare e si ottenevano dei prodotti in cui, quando mancava la carne, si ricorreva ad altre cose per dare l'impressione che fosse così un piatto fatto di carne e di altro. Era un po' la cucina del niente, come aveva chiamato una scrittrice degli anni 20. Bene, Continuiamo, volevo salutare Salvatore Laterra per chiedergli se, Salvatore, c'è qualche altro piatto di recupero, diciamo, del maiale nella tua tradizione? Ma noi veramente buttiamo pochissimo del maiale, buttiamo purtroppo da qualche anno l'interiore e basta, tutto il resto viene utilizzato. Bene, ti ringrazio e a presto. Grazie a te, a presto. Davide. Un saluto a Chiaramonte, Gulfi. Tante cose. Bellissimo posto. Buona continuazione. Grazie. Sentiamo un radioascoltatore, Giancarlo da Pavia. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Davide. Intervengo per ciò che riguarda la conservazione del lardo, perché ho sentito l'altra signora di Pavia che lo butta. Guardi, io sono un oltre settantenne, attualmente non ho più niente a che fare perché vivo in città, però io ricordo che per la conservazione del lardo precedentemente si faceva una cosa molto semplice, faceva a pezzettini, fresco così com'è, lo si faceva bollire come si faceva lo struzzo con dentro le foglie di lauro, dopo il liquido lo si metteva nell'intestino, nel budello, si facevano i salamini e si conservavano nelle cantine fresche. Successivamente, quando sono venuti fuori i congelatori, parlo di un po' di anni fa, sì, si faceva sempre allo stesso modo, si mettevano nei congelatori per la città, io qui in città ricordo che ne ho portato diverse, e il salamino, ogni tanto si tirava fuori un salamino, si aveva già il lardo già macinato, già le cose, si faceva sciogliere appena appena perché era già stato sciolto precedentemente e aromatizzato con il lardo. Bene. Diversamente, no, c'è l'altro sistema, che si faceva prima un 30-40 giorni sotto sale e via discorrendo, così proprio fargli prendere bene il sale. Poi si facevano delle strisce di mezzo chilo, un chilo l'una, si facevano e si mettevano in freezer anche loro, si congelavano. Duravano un anno. Bene, grazie Giancarlo. Questa ricetta per la signora che ci aveva chiamato poco tempo fa. Ricordo, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Ora andiamo in Toscana, andiamo a Castagneto Carducci, alla macelleria Frolli, dove parleremo di mallegato di maiale. Allora, Frolli, ci racconta cos'è il mallegato di maiale? Buongiorno. Allora, il mallegato è il sangue di maiale unito a carne di maiale profondamente grassa tagliata a cubettini, insaccato in dei budelli di media taglia e poi fatto bollire per alcune ore. Una volta fatto bollire viene fatto freddare e una volta freddato l'aspetto si presenta con una grandezza tipo un salame, però di colore nero scuro. Viene tagliato a fette e si può mangiare sia crudo, così come un affettato, o anche comunque cotto in vari svariati modi. È l'unico salume che viene anche consumato sia cotto che crudo, diciamo. Noi lo produciamo in due modi, semplice, cioè con solo sangue e carne, oppure per i più golosi, diciamo così, ci uniamo anche l'uvetta, noci e pinoli. Bene, senta Frolli, però sì, diciamo che in Toscana e in altre parti lo stesso prodotto viene chiamato, se non erro, buristo. Sì, il buristo lo intendiamo come una variante del mallegato, nel senso che viene cacato in dei budelli più grandi, e consumato solo a fette, magari non venduto il budello intero, e comunque sia non c'è una quantità di sangue come il mallegato, nel senso, nel mallegato c'è molto sangue e una quantità normale di carne, mentre nel buristo è la carne, questi pezzetti di carne tagliata a cubetti o piccolina, diciamo bagnata del sangue, poi insaccata e cotta. È simile al mallegato, ma è comunque una cosa diversa perché ha una quantità di sangue decisamente inferiore rispetto al mallegato. Bene, io la ringrazio Tommaso Frolli, e con questo suo intervento rispondo anche a un sms di qualcuno che mi scriveva: ho a disposizione del sangue di maiale fresco, volevo cucinare un piatto che avevo assaggiato da mio nonno, la torta di sangue. Non è proprio questa, caro radioascoltatore, però ci andiamo vicino. Ricordo comunque che sul sangue di maiale ci sono problemi anche dal punto di vista sanitario, quindi alcune cose sono ben vietate dell'utilizzo di questo prodotto. Ma sentiamo un radioascoltatore, Pietro dalla provincia di Milano. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo dare due impressioni riguardo la valenza nutrizionale dei prodotti suini. In particolare, l'assunto che il colesterolo sia elevato dipende dai componenti della carne, e ovviamente i componenti grassi contengono colesterolo, ma tanti prodotti e tanti pezzi i tessuti della carne suina hanno un valore di colesterolo paritetici alle carni ovine, avicole, quindi polli e altre. Quindi carne. Molto basso. Sì, quindi una coscia di pollo ha la stessa quantità di una parte magra di colesterolo, ovviamente, e di una parte magra della carne suina. Senta, Pietro, ma lei è un medico? Sono un nutrizionista e insegno alla scuola di scienza dell'alimentazione, quindi bene. Parlo con tabelle alla mano. Bene, la ringrazio molto per questo suo intervento. E poi volevo aggiungere un'altra cosa. La valenza nutrizionale vale soprattutto anche per il prodotto valdostano, il quale, avendo quelle componenti che sono patate, sangue e il resto, è un prodotto bilanciato ed altamente nutrizionale. Quindi sarà povero dal punto di vista del consumo, ma è altamente nutrizionale e bilanciato rispetto a tanti altri prodotti. Ma sì, guardi, diciamo questi prodotti che sono stati proprio veramente inventati in tempi bui, hanno veramente delle valenze anche nutrizionali importanti, erano proprio stati studiati per questo, non erano voluti, ma era il buon senso di chi li aveva creati a suo tempo. Ho ricordato anche la Ciuiga Trentina, perché anche la Ciuiga Trentina è basata molto su questo concetto, e in Italia ci sono moltissimi prodotti di questo genere. Grazie comunque a Pietro per il suo intervento. Bene, ora andiamo in Liguria, e mentre io ascolto Giovanna Martini della Salumeria da Benedetta di Ceriana in provincia di Imperia, contemporaneamente mi arriva un sms che, come si dice, cade a fagiolo. La tradizione della gelatina di maiale è molto antica anche in Liguria, si chiama Zeraria. È vero? Zeraria, vero signora? Sì. Me la racconta cos'è? Zeraria, allora, è un piatto tipico del paese. Si mette musetto, lingua, zampe, piedi, cotenna, tutto in un pentolone con le ossa in fondo, a strati si mette, e deve essere bollita 4 ore. Ecco signora, ma la vende ancora lei? Sì, la facciamo tutti i venerdì. Ed è molto richiesta? Sì, tantissimo, perché siamo quasi solo più noi qua che la facciamo, perché è troppa fatica, è troppo lavoro. Ah, quindi quanto costa? Diciamo, La facciamo a piattini, perché poi dopo la tagliamo a piattini, facciamo le fettine e sopra ci cogliamo il brodo proprio suo, non di pacchetti, diciamo, proprio il brodo che è consumato, e viene su 3,50 euro su 5 fettine, 4-5 fettine. Bene, quindi ogni venerdì la fate? Ogni venerdì. Ma non era molta tradizione, perché c'era la carne, quindi come mai? La carne è la testina, sì. È altro che tradizione, la testina del maiale, no. Che non ne facevano nulla. E come mai proprio di venerdì? E perché si fa una volta solo alla settimana, di venerdì, qui il sabato e la domenica la gente la mangia come antipasto, come un piatto che se la portano nelle osterie, se la portano nei bar gli uomini e la mangiano così. Quindi giovedì gnocchi e venerdì... Sì. Ho capito. Bene, io la ringrazio molto. A presto, allora lo ripeto, Giovanna Martini da Benedetta, Ceriana, provincia di Imperia. Bene, continuiamo. Sentiamo una radioascoltatrice da un nome francese, Corinne da Modena. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi dica. Io sono francese e da noi si mangia spessissimo quello che si chiama boudin, dunque con la stessa parola che ho sentito prima da quel signore della Val d'Aosta, che però fatto essenzialmente di sangue e di grasso di maiale, di cipolle, che viene poi messa in budella e cotto in padella. Quindi siamo abbastanza vicino alla Valle d'Aosta, probabilmente diciamo che c'è stata così un'influenza probabilmente francese. Bene, lei la mangia ancora a Modena questo piatto? No, a Modena no, però quando torno dalla mamma me lo fa. Ho capito, ma c'è una regione particolare che ha questa tradizione in Francia? Io sono della Borgogna e so che da noi si fa molto, non so per le altre regioni se è una cosa tipicamente francese o della mia regione. Bene, si beve bene allora nella sua regione. Sì, alla grande. Va bene, grazie a Corinne dalla provincia di Modena. Bene, ora andiamo da un amico produttore di Anduja che in questo momento si trova in Argentina. Ebbene, io lo saluto. Ciao Luigi Caccamo, buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Il re dell'Anduja di Spilinga. Allora, spieghi brevemente come è fatta l'Anduja calabrese? Sì, diciamo che più che calabrese è di Spilinga. Poi addirittura. È nata Spilinga l'Anduja, sì. Poi se ne è appropriata tutta la Calabria, perché il peperoncino poi calabrese, quindi... Voi la pronunciate Anduja, quindi? Sì, Anduja, dal francese deriva. Ecco, sì, Anduja, va bene. All'epoca di Napoleone Bonaparte il nome è stato dato, anche se l'Anduja poi originariamente è stata con l'importazione del peperoncino dalla Spagna. all'epoca degli spagnoli, ecco, nel 1600. Allora, brevemente, come, quale parti vanno dentro l'andugia? Dentro l'andugia vanno lardello, guanciale, pancetta, peperoncino e sale. E niente più. Tutto ben amalgamato, impastato e lasciato stagionare per almeno 2-3 mesi nelle pezzature da 1,5 kg. Senti, ma quanto peperoncino ci va su 1 kg di andugia? Su 1 kg d'andugia diciamo che andiamo tra un 20 e un 30% di peperoncino, però è un peperoncino essiccato tutto naturalmente, così come si usa a Spilinga, e quindi diciamo che per farne 1 kg secco ce ne vogliono almeno 10 kg verdi, cioè all'epoca della raccolta 10 kg verdi nel senso non essiccati. Bene, Luigi, io ti lascio alla tua Argentina e ti appresto quindi... Il gastronauta. Eccoci di nuovo a verificare cosa succede in giro per l'Italia a proposito del maiale, se veramente si butta via ancora poco oppure se si butta via tutto e non come un tempo in cui si utilizzava ogni parte del maiale. A quanto pare ancora oggi la tradizione è rimasta e ben intatta. Bene, ora andiamo a San Miniato, andiamo alla macelleria di Andrea di macelleria Falaschi e andiamo da Andrea Falaschi, perché in questa macelleria c'è una grandissima specialità che è la spuma di Gotha di San Miniato. Buongiorno Andrea, ci spieghi cos'è la spuma di Gotha? Certo, dunque la spuma di Gotha è una vecchia ricetta che noi abbiamo riutilizzato e abbiamo registrato la denominazione, e è semplicemente un derivato della guancia stagionata del maiale di Cintasenese in questo caso, o meglio, correggo, di suino cinto toscano, che adesso è un dotto. E quindi semplicemente è una mousse da formare sui panni abbrostolito e si ricava dopo la stagionatura, come ho detto prima, quindi si toglie da una parte la cotenna, la pelle stagionata, e da una parte si ripulisce da tutti gli aromi che abbiamo utilizzato per in principio aromatizzarla, farla stagionare, quindi dall'aglio professale. Rimane tutto questo involucro, questo pezzo, scusate, bianco, si fa a pezzettini e si batte a mortaio. E poi è pronta da spalmarsi sul pane abbrostolito. Quindi è un gran prodotto da antipasto questo, immagino. È un grandissimo prodotto da antipasto, come crostino, ma la si può anche utilizzare con della carne bianca, tipo un petto di tacchino, un petto di pollo o un coniglio disossato, quindi fare un semplicissimo ma gustosissimo rollè. Bene, Andrea, visto che siamo a San Miniato, non perdiamo l'occasione per chiedere, ma è arrivato il tartufo finalmente? È arrivato, ci ha voluto... bene, alla fine questo tempo che comunque con la pioggia che c'è stata nelle ultime settimane ha ridato possibilità di trovare questi tuberi, e adesso sinceramente da come si era partiti abbiamo una buona qualità di tartufo bianco, non è male. Bene, grazie Andrea Falaschi con la sua spuma di Gotha di San Miniato, e a presto, ciao, a presto. Sentiamo Gabriella da Pisa, buongiorno Gabriella, una radioascoltatrice, prego. Buongiorno signor Paolini. Le volevo dire che fino adesso nessuno ha parlato di fegatelli. No, nessuno ha parlato di fegatelli. Può parlarle lei se vuole. Sì, certo. Lei non l'ha mai mangiati? Sì, le ho mangiate come? Con la rete le ho mangiate. Bravo. Sì, questi fegatelli, niente, l'utilizzo del fegato che è veramente eccezionale, perché vengono fatti a pezzi, non a pezzi piccoli, ma a pezzi grandi, poi vengono drogati. Poi drogati con cosa? Con cosa drogati? Drogati con sale, il pepe. Il pepe di solito si adopera. Ho capito. E poi ci si mette dentro l'alloro. Si avvolgono nell'alloro o prima o dopo di metterli nella rete. Poi per conservarli questi si mettono dentro la sugna, credo. O non so ora se si chiama sugno, se si chiama lardo, ora questo non lo so spiegare bene, forse lo strutto, bravo, forse lo strutto, sì. E di solito ora questo periodo che poi vengono macellati, certo, li troviamo anche nelle nostre macellerie. Bene, mi dica. No, poi voglio parlare di un'altra cosa, che anche di quello ho sentito poco, il mallegato. Sì. cipolla, il sanguinaccio, come si chiama? Beh, sì, è un po', diciamo, molto più elaborato. Un tempo si chiamava sanguinaccio, ma era quello fatto in casa. Ora, cioè, il mallegato di maiale, diciamo che ce n'ha parlato la macelleria Froli di Castagneto, Carducci, mallegato o buristo da altre parti, come abbiamo detto. Grazie, Gabriella, la saluto, a presto. Bene, io volevo anche ricordare che in Italia ci sono moltissime salsicce definite matte perché appunto non sono interamente di maiale, ma dentro c'è un po' il recupero delle parti secondarie del maiale aggiunte con patate o altre tipologie di prodotto. Ne voglio ricordare una, diciamo, dove sono nato io nella zona, che è a Santa Sofia di Forlì, dove c'è ancora una macelleria che si chiama Cocchi, che la produce, che si chiama Chavar, ed è veramente molto particolare, ma anche in altre città, Fano per esempio, anche lì ci sono macellerie che fanno la salsiccia matta, quindi è un altro prodotto che si va ad aggiungere. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ricordo ancora altri piatti, ad esempio un radioascoltatore mi segnala la testa di maialino da latte al forno del ristorante Alla Speranza di Castelfranco Veneto, ottimo, l'ho assaggiato, e ancora le trippe di maiale di un ristorante specializzato appunto in interiora, sia di manzo che di maiale, che è il ristorante Dal Vero di Badoere in provincia di Treviso. Bene, continuiamo questo nostro giro dell'Italia e ora andiamo in Friuli, andiamo nelle vicinanze di Udine a Malborghetto e andiamo alla trattoria da Giusi. Buongiorno ad Alfredo Domenic, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, voi di solito offrite tra i piatti la sassaca. Ci vuole spiegare com'è fatta la sassaca? Allora, la sassaca, l'espressione giusta, è un tritato di pancetta affumicata. Praticamente è una pancetta piuttosto magra, e questa viene affumicata, viene prima trattata con sale, pepe e messa in salamoia, poi dopodiché asciugata, affumicata, e quindi quando è stagionata e asciutta viene macinata ed diventa la sassaca, ed è un condimento che si usa così come spalmato sul pane, può considerarsi una specie di marmellata di maiale, oppure messa nella padella e viene per fare un condimento sul radicchio o quant'altro. Senta, io ho trovato però scritto da più parti sassaca con due S, lei la pronuncia con un S solo. Ci sono, mi sembra che ci siano aree carinziane, mi sembra di che... Esatto, noi siamo qui nella Val Canale, nell'estremo lembo dell'Italia, in cima al Friuli e verso l'Austria. La Val Canale un tempo faceva parte dell'Austria, e nel dialetto valcanalese si dice sassaca. Ecco, invece in altre parti si dice sassaca. Sì. No, perché appunto, quindi già le differenze di pronuncia tra diciamo nella stessa regione molte volte sono importanti per definire i prodotti. Io la ringrazio, Alfredo, a presto, la saluto. Bene, continuiamo questo giro e ora sentiamo, ci sono molti radioascoltatori in linea, sentiamo Alberto dalla provincia di Ferrara, buongiorno Alberto. Buongiorno, io volevo parlare della salsiccia matta, non so se... Sì, l'ho appena citata, però... Forse è stato nel momento proprio che avevo spento la radio in previsione di avere il collegamento. Sì. Niente, si è già detto come si fa... No, prego. Quindi noi, io con altri miei amici, no, una volta l'anno insomma facciamo questa macellazione del maiale, mettiamo le parti dove si è coagulato praticamente il sangue, e quindi non si sono sgrondate bene, nella salsiccia matta, oltre al polmone e a, diciamo, alcuni pezzi di lingua ci sono, poi ci va un po' di fegato, aglio, molto aglio, sale e pepe logicamente perché si possa mantenere, ed è buonissima da mangiare, è migliore della buona, sebbene anche questo sia un prodotto che sì, si faceva per non buttare via niente. Ecco, diciamo. Bene, grazie della sua partecipazione, un'altra cosa interessante. Andiamo nella provincia di Arezzo, andiamo da un altro radioascoltatore, Fabio, buongiorno. Buongiorno, Io ho sentato, ascoltando la trasmissione, mi è venuto in mente che a volte chiedo a mia mamma, a mia nonna, di raccontarmi i piatti della tradizione nostra toscana, in particolare della Val di Chiana. E mi hanno raccontato che non si buttava veramente via nulla del maiale. Loro facevano addirittura la minestra con la testa. Addirittura? Sì. Lei la mangia ancora questo piatto? Purtroppo ho provato a chiedere se me la facevano, ma la testa è un po' difficile da reperire. Quindi lei ha il ricordo semplicemente di sua nonna, insomma, sì. Di questo piatto. Va bene, io credo che se c'è qualcuno magari nella sua zona, in provincia di Arezzo, che le può fornire la testa, una parte della testa, pulita ovviamente, certo. Magari si faccia vivo e noi glielo comunicheremo. Grazie. Sentiamo un altro radioascoltatore, Paola Bosi. No, Paola Bosi, siamo Paola Bosi. Allora andiamo da Coletti Margherita, la ditta Coletti Margherita, che ci parlerà del Biroldo della Garfagnana. Buongiorno Paola Bosi. Buongiorno. Allora, cos'è il Biroldo, Paola? Ma ho già sentito dire parlare del Biroldo in qualche modo, perché appartiene a quella famiglia di sanguinacci che in alcune parti della Toscana si chiama Burisco, Mallegato, e in Garfagnana si chiama per l'appunto Biroldo. Ma non ci sono differenze, sì, di produzione, sì, no? Sì, come hanno già detto anche chi mi ha preceduto, varia sostanzialmente la quantità, la percentuale del sangue rispetto alla carne, e anche forse una scelta delle carni. Quindi si tratta sempre di testa del maiale e poi a cui viene legato, con cui viene legato il sangue, e poi vengono aggiunte altre spezie, e queste spezie che variano un po' da zona a zona, tant'è che anche in Garfagnana, che è fatta di no, una zona montana, fatta di tanti piccole valli, paesini eccetera, ognuno poi ha la propria tradizione nel fare il Biroldo, fermo restando questi ingredienti di base. Ecco, ma viene ancora molto richiesto? Sì, diciamo che infatti l'altra cosa che volevo dire è che da prodotto un po' così di scarto, no? Comunque, cioè, non era chiaramente, no, il prodotto d'eccellenza come il prosciutto, eccetera, però adesso invece è parecchio rivalutato, e devo dire che rientra fra quelle eccellenze della norcineria, insomma, accanto al prosciutto, al salame, al lardo, eccetera. E questo forse grazie anche, no, negli ultimi anni che beh, io credo che sia un po' la storia, la tradizione che ritorna, e quindi molti prodotti che erano stati abbandonati e molti giacimenti che erano stati abbandonati sono stati ripresi e vengono richiesti. Credo proprio ci sia, come posso dire, un ciclo storico questo di questi grandi ritorni, mentre magari piatti ricchi e molto, molto richiesti un tempo vengono sempre meno riconosciuti. Bene, devo dire che in Toscana lo stesso prodotto varia, abbiamo visto a pochi chilometri varia il nome, ma varia anche qualche ingrediente. Questo sicuramente è un fatto molto importante, perché l'Italia è il paese veramente della grandissima varietà. Grazie a Paola Bosi per il Biroldo della Garfagnana, e a presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari amici, parliamo del maiale, non si butta via niente. Siamo tempestati veramente di telefonate. Sentiamo Fabrizio da Ferrara. Buongiorno Fabrizio. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo rispondere a quell'ascoltatore che chiedeva il perché la salsiccia nei grossi supermercati, ipermercati, ha lo stesso prezzo del macinato di maiale. Sì. No, io credo che intendessi il macinato di manzo, non di maiale. Credo che la sua curiosità era questa. Comunque dica Fabrizio. No, è perché adesso la maggior parte delle catene di ipermercati, soprattutto, e anche di supermercati, acquistano il maiale già preparato dalle grosse aziende di lavorazione. Quindi non lavorano più loro il maiale all'interno del punto vendita, quindi di conseguenza queste grosse aziende di lavorazione hanno molto sfrido, le quali producono salsiccia o hamburger elaborati in modo che esca questo prodotto. Bene, grazie Fabrizio da Ferrara. Ora torniamo per un momento in Liguria e andiamo all'antica salumeria Elena e Mirko di Castelnuovo, perché producono la testa in cassetta ligure. Io vorrei sapere da Mirko Bertini cos'è questa testa in cassetta. Buongiorno Mirko. Buongiorno, buongiorno. La testa in cassetta, ma io andrei un po' indietro con il tempo e guarderei un po' un attimino cos'è il salume, cos'era, come lo facevano. Ecco, lo facevano in una maniera ben precisa, non avevano il frigo, quindi aspettavano il periodo invernale, quindi novembre era il suo periodo. Tutta la catena di lavorazione che facevano era fatta a mano. Ecco, io mantengo ancora tutta questa caratteristica, la lavorazione interamente fatta a mano. Bene, di cui poi dopo all'ultimo esce fuori un prodotto di cui la testa in cassetta è una di quelle più ricercate qui da noi, fatta interamente tutta di testa, senza l'aiuto o l'aggiunta di nessun tipo di conservanti, quindi non ha nessun tipo di conservante, non ha dentro né sangue, polmone, rognoni, fegati, cose strane che potrebbero magari alterare o il colore o il prodotto, ma ha dentro l'aggiunta di magro, quindi la testa in cassetta è un salume sempre però cotto, fatto in una maniera con delle spezie ligure che poi dopo la aromatizzano una sua caratteristica, cioè il sapore assomiglia un po' più a una porchetta, ecco. Bene, io la ringrazio, bellissimo prodotto, grazie a Mirko Bertini, già produttore anche della prosciutta, quindi un altro prodotto, diciamo, che è un'invenzione di questo salumiere. Bene, ora andiamo in Umbria e andiamo da Sigillo, in provincia di Perugia, da Antonio Cesarini. Buongiorno Cesarini. Buongiorno. Ci spiega cos'è il mazzafegato? Allora, il mazzafegato intanto dobbiamo risalire al maiale, insomma. Ah beh, certo. La zona, diciamo, tipica qui dell'Appennino, della fascia Appennino Umbro Marchigiano, insomma, dove, diciamo, questo animale, insomma, veniva allevato da tutte le famiglie coloniche e ancora oggi, diciamo, esiste. E diciamo, oltre che le famiglie coloniche, veniva allevata anche nelle piccole frazioni, nei piccoli centri, insomma, dove avevano le cose, insomma, proprio perché serviva, diciamo, come alimento per certo, la famiglia un po' per tutto l'anno, insomma. Da questo, insomma, vengono ricavate le varie, diciamo, cose, certo, tutta la lonza, capocollo, il coso e il cosiddetto, diciamo, mazzafegato. Cioè, diciamo, la mezzena del suino veniva divisa in queste parti, dicevo, prosciutto, lonza, capocollo e così via, insomma. Poi venivano tirate fuori le famose carnette, che a sua volta venivano divise in carne per salami, carne per salsiccia, carne per soprassata e carne per salsiccia di fegato e cotechino. Cioè praticamente facevano questi cinque divisioni, certo. Sì, cinque divisioni, insomma. Nella salsiccia di fegato, diciamo, parlo a suo tempo, andavano proprio quelle carni, diciamo, oltre al fegato di maiale, andavano quelle carni, diciamo, le più scarse, le più insanguinate, se vogliamo così. Quelle di scarto, insomma. Sì, diciamo che veniva messo quel tipo di carne. Oggi, grazie, diciamo, anche all'evoluzione un po' di tempi, le cose, questo, diciamo, pur rimanendo sempre un prodotto fatto, diciamo, a mano, fatto cose, è migliorato, perché chiaramente è migliorato, mentre prima, diciamo, la percentuale di carne era una percentuale molto minima, insomma, che veniva messa dentro, certo, dentro la, diciamo, il coso. Oggi diciamo che siamo arrivati, noi nella nostra produzione siamo arrivati quasi metà in metà, se non addirittura facciamo prevalere la carne, ed è chiaro che mettiamo carne, diciamo, soprattutto si mette spalla, pancetta e così via, insomma, del maiale. Bene, grazie, io la ringrazio per questa sua spiegazione del mazzafegato. Ora abbiamo pochissimi secondi, sentiamo Alberto da Milano. Alberto, veloce per cortesia, grazie. Sì, eccomi. Dunque, quando ero piccolo, nel 40, in tempo di guerra, si faceva così: i salamini si mettevano in un vaso di terracotta smaltato di 5-10 litri. Sì. Dopodiché si versava su varie parti molto grasse che facevano una fugna e dopo che bollivano per un 3-4 ore si versava sopra. Il restante, tutto prima era tritato, restavano i ciccioli. Bene. Dopodiché si passava l'inverno ogni giorno mezzo cucchiaio di questo grasso per fare il brodo e altre cosette, friggere eccetera. E però anche visto in Toscana i fegatelli infilati sui fiori di finocchio rovesciati, cioè quel fiore tenebra sì, attaccato. Sì, ce n'ha parlato prima una signora in effetti. Ah, vabbè. Questo l'avevo visto da un po' orecchio. Bene, grazie Alberto per la sua prima parte, perché è interessante il prodotto di cui ci ha parlato. Sentiamo Giorgio da Roma, buongiorno Giorgio. Ciao Davide, noi ci conosciamo comunque, se ti devo dare un'informazione di servizio che è un po', forse tu già la conosci, il suino che produce, da cui viene prodotto il prosciutto di Parma, sì, in questo momento costituito in consorzio, ha ottenuto il DOP che si chiama Gran Suino Padano. Sì. Ed è cominciata la distribuzione ufficiale da un mese nelle Coop, poi con le Conad e poi andrà con tutto il resto della grande distribuzione. Bene, grazie Giorgio, ho capito benissimo chi sei, grazie, a presto. Bene, sentiamo Salvatore dalla provincia di Treviso. Buongiorno Paolino, buongiorno. Veloce Salvatore. Sì, allora le martondelle, lei sa cosa sono? Sì, lo so, sono, ma le spieghi lei però. Gli scarti del maiale, quelli che vengono un po' scartati, macinati, si fa una polpettina e si arrotola nella rete. È il primo prodotto del maiale che viene utilizzato. Sì. Però c'è una cosa, una caratteristica per fare questi stampi. Si prende un bambino e se lo manda da un vicino a circa 100 metri, 150 sì, metri, e gli si dà una carriola oppure una bicicletta e gli si dice vai a prendere il stampo della martondelle dal vicino. Il vicino gli dà un sacco di cemento oppure un sacco pieno di mattoni. Se non che il bambino fa una fatica poi a portarlo a casa, quando è il momento di fare le martondelle, gli si dice al bambino vai a prendere lo stampo, apre il sacco e ci trova questa bella sorpresa. È una cosa... Bene, dai gattini ci sono passati quasi tutti. Grazie, io la ringrazio perché devo chiudere la trasmissione di questo divertente episodio finale. Bene, abbiamo chiuso questo viaggio nel recupero del maiale. Vi saluto, vi do appuntamento ogni giorno alle 18 con la pillola. Un buon weekend dal vostro gastronauta.